L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, ben ritrovati per questa puntata dell'Altro Pianeta, nella quale parleremo dell'impegno che 20 aziende tessili pratesi hanno preso con Greenpeace aderendo alla campagna Detox. Si impegnano queste aziende a eliminare completamente entro il 2020 una lunga serie di sostanze tossiche dalle loro produzioni, sostanze che possono ovviamente inquinare l'acqua con delle conseguenze pericolose per noi esseri umani, per gli animali, per l'ambiente in generale. Ne parliamo con i protagonisti che sono già in collegamento con noi in questo pomeriggio. Andrea Cavicchi, presidente di Confindustria Toscana Nord, benvenuto. Sì, buonasera a tutti i telespettatori. E buonasera anche a Giuseppe Ungherese, responsabile campagna Detox di Greenpeace Italia. Benvenuto. Grazie, buon pomeriggio a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, io direi, Cavicchi, intanto di cominciare con una piccola presentazione del distretto di Prato, perché in Italia è notissimo, forse non tutti sanno però che è anche il più grande d'Europa nel tessile, non è vero? Esatto, si parla di un distretto che ha come impiegati nel settore tessile circa 20.000 persone. E se consideriamo anche tutta la parte della confezione si arriva circa a 35 impiegate. Attenzione alla linea che ogni tanto ci dà un po' di disturbo, diceva? No, si parla quindi di circa 35-37 mila persone impiegate nel settore tessile, comprendendo anche la parte della confezione, non solo produzione dei tessuti. Quindi diciamo si parla di 6.500 imprese, cioè un distretto veramente molto grande. Le imprese sono diciamo di solito medio piccole o piccole, però comunque fa un fatturato, si parla di 2 miliardi e mezzo l'anno, quindi insomma un distretto importante ancora a livello europeo. Che produce anche tra l'altro per grandi marchi internazionali, sì. No? Quindi insomma la vostra scelta, sia pur limitata a una ventina di aziende per ora, è comunque una scelta importante, no? Che può avere... Sì, il nostro è un percorso sia come associazione e come imprese che hanno aderito a questo progetto, è quello di andare in questa direzione. Chiaramente dovrà essere coinvolto più un numero maggiore di imprese, perché appunto poi tutta la filiera venga coinvolta. Però è un progetto che si sta portando avanti un'associazione industriale e le imprese, e ci vuole tanti investimenti, ci sarà da fare tanti cambiamenti anche a livello di fornitori. Però chiaramente la volontà è quella di coinvolgere il più possibile tutta la filiera produttiva tessile. Tra l'altro credo con soddisfazione anche da parte della popolazione, perché io ricordo in passato, insomma, anch'io stessa ho ricevuto insomma lettere di preoccupazione rispetto a queste attività che hanno un forte impatto sull'ambiente. Come è stata recepita a Prato questa volta? Allora, Prato diciamo nella sostenibilità ha sempre avuto un'attenzione particolare. Tra l'altro la storia del tessile di Prato parte anche proprio dal recupero delle fibre, della lana, dagli abiti usati che poi venivano recuperati per fare tessuti nuovi, quindi c'è già un concetto di sostenibilità e riciclo che era degli anni passati. Noi addirittura nel nostro territorio abbiamo un depuratore delle acque centralizzato, perché il tessile sappiamo che usa tantissima acqua, quindi la usa, la consuma, la inquina e la sfrutta. Avere un depuratore centralizzato permette di recuperare 5 milioni di acqua l'anno, ed è quindi un sistema integrato proprio distrettuale, quindi per questo è molto importante. È vero, l'impatto sull'ambiente è molto forte, quindi il fatto che un distretto si preoccupi e vada in una direzione dell'eliminazione totale delle sostanze tossiche da qui al 2020 è un impegno molto forte, che anche per quanto riguarda i cittadini del territorio la prendano positivamente. Però dobbiamo anche ricordarci che l'impatto del tessile non è solo nella zona dove si produce, ma dove anche poi questo tessile viene utilizzato, perché molto spesso le sostanze inquinanti vengono rilasciate durante le fasi di lavaggio normali delle nostre case. E quindi è importante partire bene, diciamo. Giuseppe Ungherese, la campagna Detox di Greenpeace, io direi che è il caso di presentare agli ascoltatori, ne abbiamo parlato in passato, però è passato appunto un po' di tempo, quindi ricordiamo di che si tratta. Sì, la campagna Detox nasce nel 2011 per rispondere alla crisi globale dell'accesso all'acqua potabile in numerose zone del pianeta. E si rivolge principalmente all'industria tessile e alla produzione di abbigliamento in generale. Questo settore industriale è uno dei più impattanti sulle acque, il secondo in termini di inquinamento a livello globale, e chiede alle aziende aderenti di eliminare subito le sostanze tossiche dalle filiere produttive entro il 2020. Alcune possono essere già eliminate, come dimostra l'impegno delle 20 aziende pratese, mentre per altre c'è un percorso da seguire con tappe ben definite e con scadenze ben precise. Se io penso a Prato, che situazione avete trovato lì, quindi guardando a quella specifica realtà? Ma innanzitutto Prato è un distretto che ha una storia più che centenaria, per cui l'impatto della produzione tessile nell'area industriale di Prato è noto ed è lungo nel tempo. Tuttavia abbiamo trovato un settore industriale, una ventina di aziende pioniere che vogliono abbracciare un percorso ben preciso e definito verso l'eliminazione delle sostanze tossiche, quindi si sono impegnate con la collettività a seguire questo percorso che porterà al goal finale del 2020 all'eliminazione delle sostanze tossiche. Un grosso supporto viene dato da Confindustria Toscana Nord, che mette a disposizione uomini, mezzi e risorse per aiutare queste piccole e medie imprese che rappresentano il tessuto produttivo nazionale a raggiungere l'obiettivo finale. Dunque ho una notizia subito per una domanda subito per Giuseppe Ungherese, che è quella che riguarda i requisiti, diciamo, non i requisiti, gli obiettivi, ecco, di detox, che sono più restrittivi rispetto a quelli del regolamento europeo, se ho ben capito. Sì, esatto, è proprio così, perché se avessimo dei regolamenti chiari ed esaustivi in tutte le sue sfaccettature, la nostra campagna non avrebbe alcun senso. In realtà dei nostri regolamenti sono un po' a macchia di leopardo e non abbracciano il problema a 360 gradi. Con la nostra campagna invece noi prendiamo in considerazione tutte le sostanze tossiche che hanno un grosso impatto sull'ambiente e sulla salute e che vengono utilizzate nelle produzioni tessili in tutto il mondo. Le aziende si impegnano a eliminare una lista molto lunga di sostanze, più di 400 nel corso degli anni, e rispondono proprio ai requisiti verso l'eliminazione di tutte queste sostanze, con un percorso ben preciso basato sulla trasparenza, perché per ogni azienda che produce c'è un'immissione nell'ambiente di sostanze inquinanti. Le aziende che sottoscrivono l'impegno detox si impegnano a tracciare l'immissione nell'ambiente di queste sostanze tossiche e gradualmente ad eliminarle entro il 2020. Ad oggi sono numerosi i marchi dell'abbigliamento internazionale che hanno già sottoscritto l'impegno detox con i consumatori di tutto il mondo. Si contano 35 marchi internazionali che rappresentano più del 15% della produzione tessile e dell'abbigliamento in generale in termini di fatturato mondiale, per cui l'industria si muove in questa direzione e va ben oltre quelle che sono le normative vigenti. Presidente, come pensate di valorizzare anche l'impegno detox di queste aziende? Cioè ci sarà, non so, un marchio, come si farà? Perché comunque fanno uno sforzo. Allora, intanto il detox di Greenpeace, quindi noi aderiamo a un protocollo, quindi un accordo. Praticamente sono le imprese che prendono un accordo con i propri clienti a eliminare queste sostanze. Quindi non è, diciamo, un brand da utilizzare, è un vantaggio per le imprese, in quanto molti dei brand internazionali che hanno già sottoscritto avranno bisogno di una filiera detox. Riconoscibile, certo. È riconoscibile e che riconosce lo stesso progetto di eliminazione sostanze. È sicuramente un vantaggio per tutte le imprese, pur essendo un grande investimento, perché comunque si mettono al passo con i tempi, che questa è l'unica strada che potrà avere il tessile nel futuro. Oggi noi abbiamo dei regolamenti europei che sono sempre più stringenti, ma sono sempre ancora più lontani dalla realtà, cioè ancora dovranno eliminare molte sostanze. E quello che vediamo, c'è anche una disparità forte tra i nostri paesi europei e i paesi dove producono, ad esempio in Cina o in Bangladesh o in Thailandia, dove là alcune sostanze possono ancora essere usate nei processi tessili, e quindi c'è una disparità che quindi sul nostro territorio viene importato tessuti o capi d'abbigliamento con sostanze che sono vietate sui nostri territori, mentre i nostri prodotti non possono essere esportati pur rispettando le norme più rigide dei nostri territori. C'è una grossa differenza appunto nei blocchi delle dogane, che in Europa noi permettiamo di far entrare capi che hanno comunque all'interno anche sostanze tossiche, mentre invece in Cina sono molto attenti e hanno delle dogane molto restrittive nell'ingresso, mentre sulla produzione sono molto più blandi. Ecco. E quindi insomma, abbiamo parti invertite proprio. Sì, noi sì. Abbiamo proprio un sistema invertito. È un po' zoppicante come sistema, sì, direi. Sì. Quindi, visto gli obiettivi che si dà l'Unione Europea, insomma. È vero. Infatti è un grande alleato per noi che siamo produttori industriali, cioè avere fatto un percorso insieme a Greenpeace, che è un'associazione no profit a livello mondiale, è proprio perché probabilmente fino ad oggi non abbiamo mai avuto un alleato per poter dimostrare che il nostro processo tessile è sicuramente avanti anche dal punto di vista di rispetto dell'ambiente rispetto ad altri processi tessili, e in più abbiamo anche delle limitazioni e dei blocchi che non ci aiutano. Ad oggi la politica non ci ha mai aiutato. Questo è un progetto che effettivamente riesce a raggiungere il consumatore finale, riesce a sensibilizzarlo sul problema dell'ambiente e sul problema della tossicità dei capi d'abbigliamento che indossiamo. È anche una scelta industriale, quindi insomma le aziende avranno una carta in più da giocare sul mercato internazionale. Sì, dovrebbe essere anche una grande opportunità. Noi la vediamo, almeno la mia è un'associazione industriale, quindi abbiamo scopi di incremento dell'industria, però deve essere un'industria che ha un futuro, che ha quindi una crescita del business, ma però nella direzione giusta, nel rispetto dell'ambiente e in una produzione sostenibile. Certo, e ne siamo felici, se riuscirete siamo tutti contenti. Ho sentito prima che diceva Giuseppe Ungherese che metterete a disposizione uomini, risorse, in che modo e se può farci dei numeri rispetto a questo? Per aiutare le aziende. Con Industria Toscana Nord abbiamo più di 120 persone dipendenti nella nostra associazione, divise nei vari settori. Stiamo rafforzando l'ufficio ambiente e quindi incrementando il personale a servizio delle imprese. Quello che faremo workshop e incontri proprio per portare a Prato un come centro di conoscenza del tessile sostenibile. Cercheremo di diffondere presso le imprese associate che abbiano sottoscritto il detox oppure no, perché comunque noi dobbiamo fare cultura di impresa, tutte le tecnologie innovative che permettano di eliminazione delle sostanze. Andremo ad analizzare tante sostanze per capire anche quali sono i filoni dei prodotti da utilizzare soprattutto nella tintoria e nelle fasi di finissaggio delle nostre aziende. Quindi da parte dell'associazione industriale arriveremo a fare anche monitoraggi, aiuteremo le imprese a diffondere i dati delle analisi sulle acque. Ci sarà un grande impegno appunto da parte dell'associazione di supporto, di formazione e di coinvolgimento delle imprese per portare tutto il know-how possibile sul nostro territorio. Giuseppe Ungherese, voi avete per la prima volta fatto un accordo con un'associazione di industriali, direi che anche questo per voi è un grande risultato. Sì, sicuramente, per noi è una grandissima novità. Greenpeace lavora... E a volte c'è sempre no? antagonismo rispetto, invece questa volta finalmente un accordo. Sì, in effetti questa è la dimostrazione del fatto che gli accordi Greenpeace può farli anche con le associazioni industriali e non con i singoli brand. E rappresenta proprio una svolta molto importante per la nostra associazione e ci posiziona come interlocutore credibile da parte del mondo industriale in generale. Noi siamo molto contenti di aver lavorato fianco a fianco a Confindustria Toscana Nord per arrivare a un accordo che non è stato semplice, data la complessità della filiera, le molteplici lavorazioni che interessano le varie fasi produttive. Tuttavia questo ci rende ancora più orgogliosi e siamo molto contenti di questo. State lavorando in altre parti d'Italia, ovviamente con distretti magari più piccoli, su questi temi, oppure no? Attualmente no, con altri distretti industriali no. Tuttavia diciamo c'è una grossa fetta di aziende italiane che lavorano sotto traccia per sottoscrivere l'impegno detox. Ce ne sono tantissime in Italia che capiscono che questo è un problema molto grande, molto forte che le aziende hanno e intravedono solo con la sottoscrizione dell'impegno detox una via d'uscita per abbracciare un futuro libero dalle sostanze tossiche nelle filiere produttive. Certo, questo può essere anche l'accordo già fatto in Toscana, può essere anche un buon precedente, diciamo, no? E sottolineando anche l'aspetto che ci diceva prima il presidente Cavicchi del presentarsi sul mercato con una carta in più, con un partner riconosciuto a livello internazionale. Quindi insomma credo che effettivamente possa aprire, no, la strada ad altri per salvaguardare sia l'ambiente sia l'impresa. Sicuramente, cioè noi ci auguriamo che tante più aziende, tanti più distretti tessili prendano impegni seri e credibili con i consumatori di tutto il mondo. Tanti distretti tessili, sia italiani che internazionali, guardano l'accordo di Prato come qualcosa di uno standard molto elevato a cui ambire, a cui mirare in futuro, e quindi stanno già lavorando. E ci auguriamo che molte più aziende si facciano avanti per garantire un futuro privo di sostanze tossiche per le future generazioni. Allora, adesso abbiamo una piccola pausa per la pubblicità, poi torniamo insieme e tiriamo le fila del discorso. Mi piacerebbe, Giuseppe Ungherese, capire un po' come la campagna Detox si sta evolvendo a livello internazionale, cioè usciamo un secondo dal nostro paese e vediamo un po' come quello che accade nel resto del mondo, se riesce a farci un piccolo quadro. La pubblicità e poi torniamo. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su radio24.it. Radio 24, la passione si sente anche in viaggio. L'altro pianeta. Eccoci di nuovo insieme, stiamo parlando delle 20 aziende tessili pratesi che hanno aderito alla campagna Detox di Greenpeace e abbiamo in collegamento Giuseppe Ungherese, responsabile appunto della campagna Detox di Greenpeace Italia, e Andrea Cavicchi, che è la sua controparte, presidente di Confindustria Toscana Nord. Allora, Giuseppe Ungherese, appunto, a livello internazionale come va la campagna? Allora, la campagna in questo momento va molto bene, perché sono tante le aziende che recepiscono il messaggio e quindi cercano di adottare soluzioni molto positive per risolvere il problema legato all'immissione e l'utilizzo di sostanze tossiche. Ad oggi sono 35 i marchi internazionali che hanno sottoscritto l'impegno Detox con i consumatori di tutto il mondo. Tra questi troviamo aziende del fast fashion come Zara o H&M, aziende del lusso come Valentino, Burberry, e discount tedeschi come Lidl, Penny, tante altre aziende italiane che lavorano sodo per raggiungere obiettivi ambiziosi. Ad esempio ci sono produttori di chiusure lampo, l'azienda Lanfranchi, o altre aziende come Berbrand, Besani. E quindi le aziende dell'abbigliamento sportivo come Adidas e Puma, nonché altre aziende che producono abbigliamento per il settore outdoor come l'inglese Paramo. Quindi siamo in questo momento al 15% della produzione di abbigliamento mondiale in termini di fatturato che ha deciso di sottoscrivere un impegno serio e credibile verso l'eliminazione di tutte le sostanze tossiche dalle filiere produttive tessili. Nell'ultimo periodo la campagna sta, oltre alla questione legata all'eliminazione delle sostanze chimiche, sta cercando di coinvolgere i marchi su un tema molto, molto nuovo, ma su cui è necessario confrontarci prima o poi, ovvero sulla gestione delle risorse e sulla garantire dei prodotti che abbiano una durata maggiore nel tempo e una maggiore qualità, perché sul nostro pianeta purtroppo le risorse non sono illimitate, per cui bisogna un po' cambiare il nostro modello di consumo, e in questo modo i prodotti tessili, diciamo, una volta utilizzati vanno a finire in discarica e questo non va bene, per cui bisogna cambiare il nostro modello di consumo, garantire ai consumatori prodotti che abbiano delle durate maggiori, delle garanzie, servizi di riparazione, eccetera, eccetera, eccetera. Dunque, sì, no, sì, certo, io concordo, non so poi dopo Cavicchi cosa ne dice di questa, no? Fare prodotti che durino di più, va bene. Sì, pronto? Sì, c'è ancora? Sì. Dico sì, e soprattutto dobbiamo pensare a dei prodotti che una volta finito il proprio scopo, quindi un capo ha avuto il proprio utilizzo, possa essere riutilizzato in modo diverso, cioè che quindi possa essere recuperato il massimo possibile delle proprie fibre o del proprio parte del proprio tessuto. Certo, poi il tessile si presta perfettamente a questa idea dell'economia circolare, no? Su cui insiste in questo momento l'Unione Europea, e si presta, è perfetto, sempre che la catena, diciamo, sussista e sia seguita. Esatto, ci vuole un forte impegno sulla tracciabilità, perché poi dopo dobbiamo dimostrare che comunque le materie prime recuperate dal processo appunto di riuso degli abiti deve essere certificata anche dal punto di vista delle sostanze e che comunque appunto permetta una nuova vita del capo. Diciamo che a Prato è la nostra tradizione questa, appunto la nostra base soprattutto industriale da dove siamo partiti inizialmente, e comunque continua sul nostro territorio una produzione di lana riciclata che ancora appunto è la base di un prodotto tipico pratese. Probabilmente su questo dobbiamo un po' evolvere anche l'approccio e quindi sulla incentivare questa parte di una sensibilità anche del consumatore a utilizzare abiti o prodotti che abbiano magari una seconda vita. Sì, che possano certo avere, che possano avere una seconda vita. Come si è trovato in conclusione a lavorare con Greenpeace? Tutto bene? Come se ungherese non ci fosse, facciamo finta. No, devo dire che è un percorso molto bello, è nato 10 mesi fa quasi per caso, perché io dichiarai su un giornale che noi dalla base delle analisi che stavamo facendo avevamo fatto una ricerca con un laboratorio del nostro territorio sui capi appunto di importazione, ci rendevamo conto che appunto quello che importavamo era molto più inquinato di quello che lavoravamo sul nostro territorio, proprio dalle analisi chimiche delle acque e dei tessuti che lavoravamo sul nostro territorio, la mia dichiarazione fu: siamo quasi pronti per andare incontro al detox. Questo provocò forse anche qualche reazione da parte di altri distretti o anche miei colleghi, dissero: ma cosa dichiari, è una cosa troppo avveniristica, troppo ambiziosa. E invece ci siete arrivati. Sì, perché da parte loro ci fu la volontà di incontrarmi, si incominciò a fare un percorso serio, si fece proprio un percorso di analisi della situazione di fatto, e questo fece anche a parte loro la disponibilità a capire che Prato era un distretto che aveva le capacità di evolversi, pur avendo una filiera molto frastagliata, le aziende molto piccole. Interrompere perché voglio riservare 2 minuti della trasmissione in conclusione, però vi auguro i migliori risultati e ci diamo appuntamento quando farete tirerete le fila, diciamo, no? Tra qualche mese, tra un anno, quando sarà il momento giusto. Ringrazio quindi Andrea Cavicchi, ricordo presidente di Confindustria Toscana Nord, Giuseppe Ungherese, responsabile campagna Detox di Greenpeace Italia. E do il benvenuto a Fiamma Romano, Marketing and Communication Manager di Tridom. Ci spostiamo da Prato a Firenze, benvenuta. Ciao, buonasera. Allora, Tridom, che cos'è? Vai velocissima perché abbiamo davvero poco tempo. Però è San Valentino, avete una bella iniziativa. Sì, allora, Tridom è un'azienda nata da un gruppo di ragazzi italiani con l'obiettivo di rendere il mondo più verde attraverso alberi e tecnologia. Quindi, brevemente, il nostro lavoro è quello di permettere a chiunque di scegliere quale albero piantare, far sì che questo albero venga realmente piantato da qualche parte nel mondo, da parte di un contadino locale, e poi dare la possibilità di seguire questo albero online. Quindi si tratta di dare la possibilità di rendere il mondo più verde a chiunque dal proprio smartphone o PC. E quindi adesso che c'è San Valentino avete rilanciato, diciamo, alzando l'asticella questa volta. Non solo si compra e si segue un albero, ma... Che si fa? Ma si può regalare l'albero dedicandolo alla persona che si ama, quindi ogni albero può essere personalizzato con un messaggio, può essere dedicato a qualcuno. Piantare un albero è un gesto romantico, simbolico, in più appunto, ed è meglio che tagliare un fiore. Esatto, fa felice sia chi lo riceve che appunto migliora l'ambiente e la vita dei contadini che lo piantano, e quindi per San Valentino abbiamo scelto 4 alberi che per il loro significato sono perfetti per gli innamorati. sono l'albero della dolcezza, l'albero delle fantasie, l'albero della pazienza, perché in amore serve anche quello, e infine l'albero della felicità, e li abbiamo personalizzati appunto con una grafica a tema amorosa e stiamo invitando tutti gli innamorati a piantare un albero e a dedicarlo alla propria dolce metà. Ovviamente tutto ciò si svolge su internet, ricordiamo il vostro sito anche? Sì, è www.tridom, come freedom ma con la T iniziale, .net. Quindi T-R-E-E-dom, esatto. .net, e appunto si può scegliere l'albero, si può seguire, e io ho trovato che fosse un'iniziativa che meritava di essere presentata, non solo perché è San Valentino, ma perché comunque di alberi abbiamo bisogno. Ne tagliamo troppi, li maltrattiamo, insomma possiamo regalarcene uno con una spesa tutto sommato accessibile, no? Perché poi Fiamma non stiamo parlando, sì, di grandi cifre, ecco. No, assolutamente, si va da un minimo di 5 euro a un massimo di 45, sì, quindi sia che si voglia fare un bel 45 regalo. Cos'è il baobab? 45 euro attualmente è il banano, di solito abbiamo anche il baobab, ma in questo momento in Senegal la stagione è ferma, quindi aspettiamo un po' al ritardo la possibilità di piantare anche il baobab. Beh, andarli a trovare poi magari si può? Volendo si può, anche perché ogni albero è geolocalizzato e dal sito è possibile vedere esattamente il punto in cui è piantato, quindi volendo assolutamente si può anche andare a trovare il proprio albero. Beh, insomma uno si può fare un boschetto e poi per la pensione va a trovarlo magari. Esatto. Grazie Fiamma, buon lavoro, in bocca al lupo per le vostre piantagioni in giro per il mondo. Io do appuntamento a tutti gli ascoltatori dell'Altro Pianeta la prossima settimana alla stessa ora. Buon ascolto.